I voti non arrivano perché l'Italia è come se camminasse controvento con un vento fortissimo, perché l'Italia ha fatto oggettivamente una serie di passi avanti dal punto di vista dei conti pubblici, manovre effettuate, riforme come quella della pensione, varie cose anche molto dolorose, cose che piacciono ai mercati, non piacciono ai cittadini ma piacciono ai mercati. Il problema è che la speculazione non ce l'ha tanto con l'Italia in questo momento quanto con le fragilità europee. Abbiamo una situazione in Spagna che sta diventando sempre più ingestibile, soprattutto perché lo Stato non ha le risorse per salvare le banche, le risorse dall'Europa stanno arrivando ancora nel modo sbagliato. C'è stato un vertice europeo che sembrava in parte minimamente aver risolto queste cose, ma dopodiché nell'implementazione sono arrivati tutti i punti dolenti. La Finlandia ha iniziato a protestare con altri paesi, diciamo, virtuosi d'Europa, piccoli ma virtuosi. Oggi la notizia, secondo me, molto negativa è che la Corte Costituzionale tedesca ha deciso di spostare al 12 settembre, che è tra 20 anni per i mercati, ha deciso di spostare al 12 settembre la decisione se considerare costituzionale oppure no la partecipazione tedesca al nuovo fondo salva Stati europeo, quello che dovrebbe salvare le banche spagnole senza inguaiare lo Stato e così via. È ovvio che in questa situazione i mercati si spaventano e vanno a colpire i più deboli, purtroppo noi siamo tra quelli.